Si vedono i migliori. Nottetempo sei riuscito a scappare, tu giugno di breve poesia. Allora loro ti colgono e sento già i vari anticonform. Chiedono chi sono i migliori. Lo chiedono a me, vecchia porta socchiusa. Come non lo sapessi che è una bella invenzione. Come se non avessi visto il gatto mammone fuori dalla porta del bar. Circonfusi ad ideali bislacchi, signori del nuovo come nuovi santi, e senza rispetto poi attraversate le strade di tutti, solo avete 20 anni e tutto il loro sudore, solo avete 20 anni e non li vorrei riavere, ma ridatemeli invece vecchionamente balbetto, che 20 anni sono buoni a rimanere coraggio. Sono buoni a percorrere testardamente cose distrutte, byway e rinnovare strade, gruppi corrosivi per la musica, per l'ama. Ma se me l'ero inventata il mondo prima, com'è che adesso me lo ritrovo addosso? Smessa gabbia per poli, anticamera, solaio. Com'è che adesso tutto sibila e le vecchie paure sono fuori dalla porta del bar? Dice bene lei, principessa meraviglia, siepata, siepante totale, ha visto montagne ridursi a mollicine, e ha visto navi che partono la notte, un carico pesante di fiume in furore, spargersi molle di inquinare ascelle, non di gente, lo capite, scemi, lo capite, cazzo, che il mondo è la gente, vi cambiate a sputare addosso continuamente, senza provare un arrangiamento di rime, nel vostro veleno bieco abbiamo foglie piene, assieme a tutti gli altri, ci incatena, ci agglutina, ci unge, uccelli petroliati che siamo, invece sguardi oltre porterebbero miracoli possibili, scrollatevi i 20 anni di dosso, basta ingurgitare fatta musica, vi hanno fatti che mancate di sguardo, accatastati in momenti qualunque, anticomici, provate a resuscitare significati, provate ad intendere che quelle coesie malvagie le abbiamo scritte noi, i peggiori prima.